E sono troppe le persone che promettono e poi appena possono si girano, strappano, foglio mettono. Oggi l'inchiostro è più potente di ogni pugno e scriver con una penna può provocare il grugno sul volto di un bambino, sul volto cittadino, di chi si sente abusato e di chi si sente un cretino, di chi vuole vivere la sua vita per intero, di chi ha paura di un cancro per coltivare il suo terreno. E sai qual è il punto? Che tutti ci stanchiamo di sentire parole che poi comunque seguiamo. Tutti quanti sanno, tutti quanti hanno visto qualcosa che secondo loro gli altri non sanno. Le parole sono sempre quelle e quelle resteranno, spessi quelli che con loro andranno. Ci facciamo prendere in giro e non facciamo niente, e poi ci lamentiamo del pensiero incongruente. Ognuno guarda se stesso il bene che può avere, anche a costo di prendere il padre e farlo cadere. Tutti furbi in un mondo di furboni, tante teste di cazzo assemblate con coglioni. E che facciamo? Niente, giriamoci pollici. Siamo indifferenti tanto quanto gli stoici. Tutto passa, bene e male che sia. Passerà anche l'inferno di una chemioterapia. Un calvario terrificante, comunque non numerato. Nonostante siamo solo numeri in sta merda di stato. E chissà quanto vale la vita di una persona. Sicuramente meno di una cazzo di corona. E se la mia vita per voi non vale niente, nulla mai avrete da me, sicuramente. Sì, meno sai e meglio è.